10, c'è qualcuno qua? CQ10, c'è qualcuno all'ascolto? Quelle cose là, funzionate, sì, funzionano tutte. Sì, sì, funziona. Adesso metto, domani dovrei essere a Sassari. Per lavorare una cosa a Franco, a controllarmi, a Franco Califfo, andiamo assieme stamattina a prendere un caffè, così Natali ti chiamo e ti do quella base magnifica. Anda bene Mela. Ehi, adesso te la pulisco un attimino, poi ci sentiamo dopo, ciao. Sì, io mi riferivo a quelle cose scritte su carta, mi stanno andando? Hai portato lì? No, te lo ricordi che stavamo ascoltando una cosa e poi le abbiamo segnate? Quelle lì stanno andando. Ah, sì, sì, grazie Gianfranco, sì, le ho tutte memorizzate. Ogni tanto sento qualcosa, anche lì devo sistemare però bene l'antenna, perché l'antenna che ho è molto bassa, capito, appoggiata lì alla rete. Devo decidermi di metterla bene, dai, ok? Ci sentiamo dopo. Con quelle sì che si vede la differenza del metro, basta un metro in più e guardando il fondo scala anche, ma è normale perché è roba ottica. Ok, a dopo nata Linux, riprendi. E via, già siamo qua, caspittina, anche in pantaloncini corti mi sono messo, cioè alla Zuava. No, io ce l'ho proprio corti, altro che la Zuava col caldo che c'è qua. E gli ho detto a mia moglie di cercarmeli quelli corti. È Giulio, oggi è giornata di partita. E ci sono sempre le partite, Gianfra. Lo mettiamo in punizione. Se continua così non facciamo più entrare al portante. Così si impara a divertirsi. Ma quei portati digitali, io non potrei usarlo, vero? Sì che li potresti usare, portatili digitali, omologati a 4.4.6, spiccioli fino a 4.4.6.200 credo, in cui c'è la banda proprio digitale sua, quindi oltre gli 8 canali tradizionali, quelli li puoi usare, con potenza massima di 500 milliwatt, che sono mezzo watt, quindi non è poco, e con antenna inamovibile, perché se si toglie l'antenna, in qualunque modo, automaticamente non è più attualizzato. Lo so. No, io ne volevo uno di quelli per ascoltare, se lo potevo usare anche in trasmissione, volevo sapere. Logicamente nella frequenza che lo posso usare, no? Sì, rispettando quelle regole, sì, tu ti prendi il portatile, l'accendi dove è previsto che sia acceso, premi e trasmetti. Poi anche lì sono autorizzati vari sistemi, perché ci sono quelli professionali che costano anche carucci, per carucci parlo di 200 euro l'uno, che vengono che sono in DMR praticamente. E poi ci sono quelli che sono in come era, PMR, non mi viene, DPMR, e quelli lì costano molto di meno, però costicchiano lo stesso. E poi c'è un altro modo che non me lo ricordo, però c'è lo stesso, due o tre sistemi digitali. Vanno programmati, bisogna essere bravini, perché sennò non senti un tubo, in parole povere. Bravino, non ne ho mai avuto così. Testimone anche Claudio, la radio è tutta un'altra cosa, quello che senti è proprio la voce in maniera chiara, con volumi anche, se c'è il volume al massimo ti rintrona, proprio potenti, senza alcun rumore di fondo. Io lo so che trasmettono così. Siria, che oggi ha pigliato un colpo, che a momenti mi si stacca. Ero lì sui ponti radio, staccato un buco, un altro po' mi sbatto anche la testa alla capotta. Diciamo la geomagnetica non era superata. Scusate, non ho capito, hai detto con la base? Con la base magnetica dove era sotterrata? Guarda, più o meno, era vicino alla caldaia a gas, che è aperta ovviamente all'esterno, e c'era di tutto. Quindi tu fidati che ogni giorno tocca pulire tutto l'impianto di videosorveglianza perché è letteralmente assaltato dai ragni, perché quando vedono l'infrarosso si buttano a farsi subito la ragnatela. E quindi mi immagino che anche quella lì fosse mezzo sotterrata, come dici tu, perché c'era praticamente ferma almeno 3-4 anni. Perché non l'ho usata, capito? Perché io c'ho l'attacco, però la capota della macchina direttamente, cosa me ne faccio di metterci un coso lì, una magnetica. Tra l'altro è visto rovinata anche sotto, vabbè, basta un coso in gomma lì e risolvi subito, con la colla. E io per quello di Antonino già c'è avanti a posto, non è un problema. Va bene, dai. Attento Claudio, se mi ascolti cambia. Cava. Aspetta, c'è qualcuno che ha chiamato, chi è che chiama? Ciao Claudio, ascolti? Ciao Tino. E qua ti ha chiesto se lo ascolti. Claudio! Sì, Gavino, così hai detto. No, Tino! Dai, sono in giro col mezzo. Tino? Ehi, ma mi ascolti? Sì, ti faccio un po' di propagazione, ti ascolto alla grande. Ma c'è un po' di propagazione, quindi sei in mezzo. Andare, dai, va bene. Dove senti? Zona Ottava. No, ti ascolto, Santiago 7, 8, oscillante, non c'è un bel preparazione. Tu mi ascolti bene? Sì, a voglia, dai. Ecco, adesso sì, quasi no, ti ascolto. Dai, le braccia ci sentiamo dopo. Avanti, Gianfra. Sì, lo sento anch'io. Attino, è in macchina. A volte lo sento bene, a volte scende. Quindi, a seconda della zona, io ho sempre Monteoro in mezzo a piedi. Verso, se si trova a Tava, quelle zone lì, un po' triste. Vai tu, Natalita, Tino, se lo senti. Sì, che lo sento. Ciao, Tino. Ciao Natale, se mi ascolti, ciao. Già ti ascolto, miau. C'è propazione adesso. Natale, ti volevo dire, con l'antenna ovviamente vuoi, ma l'antenna, ovviamente, sono rintronato. Quella base magnetica vuole pulita perché era all'aperto, ho capito. Non le fa niente, però era una pulitina, poi ti procuri un pezzo magari di gomma, eccetera. Con la Treppini la metti sotto e le fai il suo cerchio nuovo, così non c'è problemi, la puoi utilizzare anche in macchina. No, ma io la devo usare qui, capito? Con quello piccolino in ascolto. Quindi stai cercando un digitale anche tu? Ehi, per ascoltare altra cosa, là, perché hai capito? E qua non si sente più nulla. Ma molti non lo capiscono, ma non funziona così, Natale, è tutto un mondo diverso. Se lo pensi come il classico apparecchio, accendi e parla, non funziona proprio così. Se devi far ascoltare altro, proprio non funziona, perché tutto quello che c'è si lavora solo in cripto praticamente. Quindi se per ascolto ti servirebbe a poco e a niente, anzi più a niente che a poco. Cioè praticamente mi vuoi dire che non si possono decriptare? Non so se stia uscendo perché mi si sta facciamo? C'è il filetto che si sta attaccando, sotto la fredda, perché vedo la lancetta che a volte impazzisce. No, non si può, Natalino, se per quello sono soldi buttati, perché è tutto codificato, ma non codificato come pensi tu, no, è proprio codificato. Ci hanno due sistemi, il sistema normale classico che ci hanno entrato in tutta la radio, perlomeno siccome sono le stesse che ho io, praticamente sono a 40 bit, e in più hanno anche la rotazione ogni volta che premi il PTT, possono avere la rotazione fino a 30 chiavi, ogni chiave è composta da 10 caratteri o numeri o altri segni speciali. Vai tu, quanti anni ti occorrono a decifrare il tutto, e anche quando l'hai decifrato poi al prossimo PTT la chiave cambia. Poi con una piccola implementazione sulla AES, allora c'è un sistema che a livello militare praticamente, quindi ti attacchi proprio al tram, quindi non ci pensare neanche, guarda, è una guerra persa all'inizio. E beh, cosa ti aspettavi, che facevano le cose perché per poi continuare a sentirsi in aria, ritrasmessi, eccetera, eccetera, non funziona così, capito? Oramai devono stare attenti che le informazioni rimangano dove sono. Ma io non intendevo quelle a uso, già ci siamo capiti, io volevo solo radioamatori, capito? Quelli li puoi ascoltare tranquillamente, devi programmare anche lì i giusti parametri, ovviamente, perché i ponti c'hanno vari, come dire, c'hanno due slot, però bisognerebbe spiegarti il significato degli slot. La tecnologia è di norma e DMR oramai, ma c'è anche qualche residuo di star in giro, Sardegna non lo so se c'è ancora di star, è più di un ponte, dato che sono dual in 4 C4F, quello della IAIS, un po' in parole povere. Quindi insomma è una cosetta un po' che richiede tempo anche a spiegarlo, Natale. Io me lo volevo comprare quello DMR. Anche le 200 non me ne fregava nulla. Guarda, siccome io poco fa, infatti sto rientrando, ero a Bade Urbara, e appresso non mi ha portato il solito che mi porto, che quello è professionale con la P, e mi ha portato uno di quelli lì, è proprio da 200 euro, ma ero accorto a prenderlo e a buttarcelo dalla macchina e lasciarlo lì a Bade Urbara, perché proprio sono dei cessi micidiali in confronto a quelli là, da quello là. Quelli che ho io ne ho 4-5, ma sono radio, capito? Sono radio con la R. Quelli, gli altri, questi da 200, da 100 euro, da 90 euro, sono delle cagate infami, veramente. A giocaviso, non ne devo comprare. Quelli, la roba buona in quel campo costa molto, molto, molto, molto. Guarda, io ne ho qua davanti uno che fa il portatile stesso, fa da ripetitore. Stavo cercando la versione base, cioè la versione non portatile ma veicolare, l'ho trovata in Inghilterra. E praticamente viene intorno ai 1000-1300 euro. Ed è solo monobase. monobanda, tra l'altro, perché sono tutti monobanda, solo quelli da 13 sono bibanda e così via, ma le marche professionali fanno solo bibanda e la differenza la noti immediatamente, non c'è scampo lì. Però il portatile ad esempio costa, con le licenze eccetera eccetera, costa esattamente, quanto l'ho visto, intorno alle 850 euro, capito mia, quindi sono prezzi da HF amatoriale. E infatti. Poi magari ti ridurre pure perché non senti nessuno, la frittata è fatta. Diciamo, la propagazione sta andando aumentando. Hanno detto che con questo qui che c'ha più watt di quello là che usavo, quello da 2,5 watt, quell'altro omologato, dice che esco più basso con questo, buh. Più basso di radio o più basso di segnale? No, di segnale, la radio è perché sto usando il microfono normale. Guarda, dei segnali che danno i CB, se devo essere sincero, io no, non ci capisco più niente. Per quello che a molti, per tagliare la testa al toro, li faccio ascoltare e poi do il segnale che vedo qua su questi apparati. Altro non posso fare, però noto che c'è quello che sente sempre bene, c'è quello che sente meglio, c'è quello che sente male. Insomma, nessuno è mai d'accordo, quindi di lì non, onestamente non so cosa dirti, Natalia. Secondo te è lo stesso segnale che ti arrivava prima oppure più basso? Ecco cosa ti vuole dire. Chi se lo ricorda più, Natalia, ascolto tante di quelle stazioni che se mi ricordassi tutti i segnali sarei praticamente un calcolatore. Giulio mi ha detto che gli arrivo più basso. Mamma mia, c'è uno in FM che sta arrivando 9 qualche spicciolo. Un altro petit copre, Natali. Già siamo arrivati a bel punto. Perché quando si apre salgono i segnali altissimi. Niente, come mai questa mania? Ma guarda che c'è pochissima gente in digitale, nonostante gli sforzi un po' di tutti per implementarlo. Invece quello non capisce niente, e all'altro dice che non funziona solo perché non riesce a programmarlo, e quindi è ovvio che non le funzioni se non ci riesce a usarlo, e tutte queste belle cose, quindi Natali, cosa vuoi che ti dica? Era per ascoltare altra cosa, anche non dico quelli che ascoltavo prima, perché io utilizzavo proprio. Almeno quelli su me. Mamma mia. Aspetta un attimino, Natali, che cerco un canale un po' più tranquillo, perché stanno troppo aumentando questi segnali. Dove vince la dimentichi? Se il tavoletto giù, sono segnali fortissimi. tu zitto che sei dipendente dalla televisione, già lo sai. Sarebbe stato arrivato 9:20 questa in FM. Non vi sento, non vi sento, né uno né all'altro. Che questo è un FM che è micidiale, 9:20 mi sa che va. Lo sento anche io, però sento anche a te. Ma io lo sento a voi. Aspetta che vuole un canale più pulito. Giulio, ciao, buonasera, sono tedeschi. Ha detto che non ci sente Giulio, prova a trovare qualche canale più pulito. Ma che è così dappertutto Natalia, tutta la banda è così, forse se sta meglio sui canali di sotto, sono gli unici che... Aspetta che aumento un pochettino, io sto per passarlo, ma sono proprio segnaloni, segnaloni in FM 9:10, 9:20, è una cosa che non si crede. E io i canali di sotto non ce li ho. Come che la miseria quanto arriva forte? Sono in FM ma proprio... fortissimi. Pazienza, Natalia, cosa vuoi che ti dica? Speriamo se così Giulio mi sente un pochino. Giulio, mi senti? Oh, neanche a balla, vedi? Quando succede così la propagazione è fastidiosa e basta. Basta andarcene nel canale dell'acqua. Se mamma entra mi lo metto qua. Qua è, aspetta, l'accendo lì e altro non posso fare. Questo è anche peggio della portante, vedi? Perché sono segnali veramente forti. Natalie, ti sto chiamando. Giulio, ci sei? Giulio, ci sei? Cucù? Hello. Attento compagno di Scucci d'Italia che va chiamando. Hola. Hola. No, ora non abbiamo, abbiamo Dixon noi. Uè, ciao! Ciao Roberto, buonasera! Adesso mi sto uscendo giù a mangiare. Sono andato 5 minuti, perché adesso devo uscire anche io, ho dato un quarto, e poi c'è 5 minuti, se c'è qualcuno, c'era questo di Malaga, arrivava 9:20 in AM, fortissimo il segnale. Di un dì? Malaga, Spagna, sud è Spagna. Gli arrivi nei posti. Ok, dai, ci sentiamo. Dai, ci sentiamo, io vado giù. Ciao. E ciao, buona cena, buon tutto, a dopo se ci siamo. Ciao. Attenzione canale 10, chi c'è avanti su 10. Ma stai parlando, non capisco chi sei, segnale di 7, purtroppo la propagazione è molto fastidiosa, non so se sei tu, Franco, avanti. Franco alla frequenza. Sì, avanti al becco. Operatore Pasquale, sì, ciao Pasquale, ben sentito qua, operatore Roberto, nodo della Sardegna, la città è Sassari, QSL se mi ha copiato. posizione all'orizzonte premiale di 7.5 metri. La Ricco della Costa Ionica, se vuoi dire la città e anche il nome, se mi ripeti che non ho rammentato avanti. Sì, ok, ciao Pasquale, ben sentito, qua il tuo segnale di 9, la radio 5, però c'è molto QSV per cui la propagazione un po' ti disturba. Se mi vuoi dire le tue condizioni di trasmissione, se ti fa piacere, poi ti do anche un controllo. Allora, radio 1, radio 2, come andiamo a radio 2, radio 2, radio aspetta un attimino che stanno parlando, scusa un attimo Pasquale, c'era un altro QSO qua. Avanti, ripeti di nuovo, da dove, che radio, che microfoni? Sì, allora, ti dico io, sono un giocatore, comandare una chiave Blizzard, una chiave, avanti una persona. Amico della Sardegna, non riporto, non adesso, però che ho scusato il suo partito fino a poco. Sì, Roberto qua, ti riconfermo il nome, Roberto qua, sempre città di Sassari, nord della Sardegna. La mia è un'antenna 5 ottavi, la radio un cable di un 440 con una microfonia e un MC60. QSL, vediamo se mi hai copiato. Purtroppo qua Pasquale è un po' fastidioso, la propagazione qua sta andando fortissimi, gli spagnoli arrivano anche 9.20 e tu sei sul 9.10, purtroppo ti discavalcano. Ti saluto, comunque dai, è stato un piacere ascoltarti, ci sentiremo se dovesse capitare, con piacere prossimamente. Ciao ciao Pasquale da Sassari. Ciao ciao. Avanti, chi è che chiamava qua sul 10? Avanti qua, segnale forte era. Sì, forte con l'accento. Sono un po' rauco, Roberto. Sto usando lo Yaesu con MB5, come va? Una bomba, cata fortissima la radio, forte, forte, veramente forte. Bella, si può usare, dai. È già rugrido, fortissima. Infatti, questo deve essere Claudio, un bombardamento, proprio il tocco, poc. Però con l'adattatore, perché questo chiaramente è il microfono che uso anche col Galaxy, capite? Eia, no, va benissimo, ti ascolto benissimo. Ci vediamo lunedì, Robert, domani mattina non ce la faccio, sono incasinato presso, c'ho il mio vicino che vuole dare una mano per fare svuotare la cantina e quindi devo andare a dare una mano perché lui è venuto, e ci vediamo lunedì. Ma svuotare la cantina dei vini o svuotare le altre cose? Ehi, già c'è anche il vino, no, deve svuotarla perché deve fare una parete nuova, capito? Quindi devo dare una mano a spostare gli scaffali e tutta la roba. Non ti preoccupare, non c'è problema, dai, ok. Comunque è bella la radio, mi piace, è bella forte. Via, 20 watt, neanche, quindi 15 da 18 modulati, 18-20 modulati. Com'è il segnale? Sei quasi 9.30, 9.25 tendente al 9.30. Ascolta, adesso commuto col K. Ok, ti ricordo che col K c'è più potenza e poi c'è l'MC60, mi dai un confronto a vedere. Aspetta, prova a parlare di nuovo, che così guarda anche il livello microfonico. Guarda questo livello microfonico, è il segnale, ha detto quasi 9.30, quasi. Adesso io commuto col 430 e mi dici se c'è molta differenza tra una e l'altra, considerando i microfoni che uno insomma è professionale e l'altro no. Ok. Ok, allora questo è il 430, sono un bel rauco, con l'MC60, dimmi il segnale e la radio. Allora il segnale è salito un peluzzino di più, se il 930 ha spaccato la radio, e questa è più rimbombante, probabilmente stai amplificando troppo, però quella era più forte, cioè l'intensità di qua, questa sembra più forte perché è molto rimbombante, sento quello che c'è intorno, però quella là come intensità era leggermente un peluzzino qualche dB più di questo. E questo segnale è molto più alto, quindi 9.35 mai detto. No, questo è 9.30 spaccato, l'altro era 9.25 e con i picchi arriva bene 9.30, qua c'è 9.30 pieno e sale un peluzzino di 9.30. Adesso il livello microfonico è uguale a quell'altro, cioè quasi più 12 dB di coso, di intensità, come l'altro, dai, esattamente come l'altro. Ho capito, vabbè, ma cazzo, qua ci sono 50 watt, là ce n'erano neanche 20, come fa a essere così poca la differenza? 9.25, quasi 9.35 questa, quindi. No, sei 9.30 qua, con l'altro del 9.25, con i picchi, questo invece è tra 9.30 spaccato, cioè spari 9.30 e poi sali un peluzzino, 9.35 non ci arrivi. Ma picchi modulazione ma ce li ha questa. Sì, sì, certo che ce li hai picchi, assolutamente. 9.10 a San Giovanni. Ciao carissimo, come stai? Va bene, il 4.30, è arrivato finalmente. Va bene, ero qua di passaggio, dai, saluta Roberto, 9.10 qua. Ma si vede a 9.15 tu. Non so manco quanto è, boh, era un paio di mesi spenta questa, Roberto. Che cosa era dietro? Questo è Galaxy Saturn. Cos'è un Turner? Che microfono c'è il suo? Sì, un Turner più 3... Sì, va benissimo. Ok, chi è che ha fischiato? Va? Io, il più forte. Ah, Antonio. Non è mai niente, Antonio. Cosa c'è? Più veloce della luce. No, l'ho messo in forno adesso. Già lo sai che il più forte c'è ancora rimasto sempre io, Tu ormai sei stato nella tana dei lupi. Dai, ero di passaggio, era giusto per darti un controllo. Vi saluto a tutti, buonasera, ciao. Facciamo i bravi, dai. Gira gira mi basta Antonio a punti, dai, gira gira. Cosa hai detto Massimiliano? Ti passa Antonio. Visto, sono diventato il numero zero, cazzo. Non lo so, se passa o no. Non lo so. Vai, è finita, vai. No, Antonio, passa Claudio. Lo so, è vicino, sarà. Vicino? Cazzo, diretto con vicino. Hai visto che sono 20 km di 15 km da lui sono io. Io linea d'aria non è che sia tanto favorevole a lui. Dille Cla che è passato lo scettro della torre di controllo di Vigo, dai. Vabbè, lasciamo perdere. Non ne voglia più di giocare, no? Se no anche da qua già da mattina forte, comunque già mi sto difendendo bene, dai. Giusto per fare due chiacchiere già va bene. 9.10 anche tu, Massimiliano, eh. Ehi, Claudio, ricordati che questo Galaxy c'ha 2 watt di portante bianca e una trentina modulati, eh. Appunto, sei 9.10, fate il bronto, quindi. Ricevo e trasmetto bene, non c'è problema. Ottimo per la truppa, l'alghero arriva 9. Arrivavo qualcosa in più, ma comunque già va bene. Va bene, è sempre l'ultima radio, dai. Dai, non mi trattengo che sono qua di passaggio, là. Avanti, vabbè, ciao, buona serata a tutti, saluto, ciao. Ah, vai da dove sei andato, va. A livello braghetta, tu. Vai. Ancora devi cacci un po', godere. Ma ci vediamo, la radio è sempre la stessa, sì. Sempre. Bella, sono contento, Perché mi ho fatto quel lavoro che ti avevo detto, bella... Nella potenza e basta, il resto ho lasciato tutto come da manuale, va bene. Poi domani ti telefono e ti dico una cosa, che mi è successa, bella e non brutta. Gappa. Vai Robè, vai. Vado per salutare che devo uscire, devo andare fuori da qualcosa. Dai. Ciao Claudio, ciao Antonio, ciao Massimiliano e tutti gli eventuali qua amici su canale 10 in ascolto. Cuore da parte mia. Ciao, eventualmente ci sentiamo domani. Ciao Robè, alle velocimine. Gappa. Avanti Antonio. Ciao Robè, ci sentiamo alle prossimine, ciao. Ehi. Ascolta, tanto tiro su ancora appena la potenza del 4.30. Mi devi dire se satura la modulazione o se rimane stabile. Guarda. Ecco qua. Va bene così la modulazione, sempre buona. Poi io non ho nessuna differenza. In modulazione non ho nessuna differenza, va bene? È rimasta stabile. Ho tirato su. Capo, è rimasto stabile. E io che sono al massimo, com'è? Buona? Sei quasi 9.20 Antu. Ottimo, te l'ho già detto, è un ottimo segnale. Ottimo. Capo, già andò a me allora, vai. Capo. Ci sentiamo dopo che io vado a controllare la radio. risentiamo. Ciao Anto, ciao, rimango in quel rickshaw, più tardi se coincide a tutti, ciao ciao. Ciao ciao.